America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. L'America incredula, dovrei dire, continua a interrogarsi su quello che è successo a San Bernardino. Vediamo gli aspetti di cronaca. Allora, la prima novità, questo ormai lo avrete saputo, lo avrete visto, lo avrete letto. È certo che si tratti di un attacco ispirato da fondamentalismo islamico. C'è una matrice di estremismo islamico in questo attacco a San Bernardino, non è chiaro quali siano i collegamenti. Sappiamo però che Syed Rizwan Farouk, 28 anni, si è recato in Arabia Saudita alcune volte e che aveva dei contatti e dei legami con dei personaggi conosciuti dalle autorità americane. E qual è il punto che lascia tutti perplessi e sbalorditi? È che lui invece era invisibile. Si è scoperto la sua esistenza troppo tardi, eppure nel suo appartamento, nella sua casa, aveva 12 bombe artigianali, fucili, pistole, mitragliatori, oltre 5.000 munizioni, centinaia di caricatori. Perché vi ho fatto ascoltare questo spezzone dei Walking Dead, una serie televisiva che è stata tratta dall'omonima serie creata da Robert Kirkman? Perché in questo attacco di San Bernardino c'è qualche cosa di spaventevole e incontrollabile allo stesso tempo, nel senso che siamo entrati nell'era del nemico invisibile, peggio degli zombie, dei morti che camminano, dei mostri che si mimetizzano indisturbati fra noi, che colpiscono all'improvviso come presi da un raptus che purtroppo è incurabile, ed è su questo che vorrei poi soffermarmi più in là. Ecco, se non c'è questo elemento irrazionale o addirittura di malattia incurabile, e come possiamo spiegarci la storia di questo giovane di 28 anni che, pensate, guadagna 70.000 dollari all'anno, ha una figlia appena nata, una figlia di 6 mesi, una casa fantastica in uno dei posti più belli del mondo, a San Bernardino, insomma il clima è spettacolare, sole, la vita è facile, è tranquilla. Ecco, come possiamo spiegarci che questa persona con la moglie si trasforma improvvisamente in un'altra persona? Com'è possibile che questi due, che insomma sono il simbolo apparente della famiglia tipica da sogno americano, partono all'improvviso insieme per uccidere sapendo che saranno uccisi? E poi, tra l'altro, com'è possibile che lo facciano senza destare sospetto in nessuno? Ecco, sono questi i veri interrogativi con cui, al di là di tutti i fatti di cronaca, i collegamenti, il terrorismo e così via, vi dicevo, questi sono gli interrogativi che riguardano anche noi, sono interrogativi con cui si confrontano oggi sociologi, psicologi, esperti di criminalità, di antiterrorismo, perché tutto, ma davvero tutto, devo dire, in quello che è successo a San Bernardino, non ha precedenti, ci lascia spaesati, vulnerabili, insomma, incerti su chi si celi davvero dietro il volto buono, sottolineo buono, del nostro vicino. And I just cannot express that how sad I am for, you know, what happened today. I mean, I condolences still, you know, the people who lost their life. I am very sad that, you know, people lost their life and there's victims out there. Ecco, questa è la voce di Farhan Khan, che è il cognato di Syed Rowan Farouk, l'assassino, l'omicida, il terrorista. E questo senso di vuoto di cui vi parlavo prima era chiarissimo nello sguardo di Farhan Khan. Ha raccontato che si erano visti appena una settimana prima, che si vedevano spesso in famiglia, vivevano tutti vicini, madre, fratelli, sorelle, erano a pochi isolati gli uni dagli altri. Eppure nessuno sapeva, naturalmente, perché se si fosse saputo forse questo non sarebbe successo, ma diciamo nessuno sospettava che nella casa della giovane coppia potesse esserci un arsenale come quello che vi ho descritto poco fa. E poi, alla fine, per chiudere il cerchio, le tute mimetiche. Perché queste tute mimetiche nere usate per andare a uccidere, secondo me sanciscono sul piano simbolico il passaggio dalla condizione normale appunto a quella di zombie, il morto che cammina, quello che a te sembra normale che ti aggredisce all'improvviso. La cosa che colpisce di più nelle parole di Khan è quando descrive il cognato dicendo che era normale, ma era una persona normale, sorridente e normale. E allora chiediamoci, perché questa è la sfida, come riusciremo a individuare in questa normalità il nemico mortale, perché di quello si tratta. È davvero pensabile indispensabile. Molti dicono, beh, dobbiamo mettere in piedi delle politiche di comunicazione, di educazione, di rieducazione, di convincimento. Ma secondo me, com'è possibile immaginare di rieducare delle persone che hanno un bambino, una bambina di 6 mesi, la danno alla nonna dicendo che devono andare dal dottore, si riempiono di armi e vanno a morire? Ecco, io credo che il gap in una situazione di questo genere sia incolmabile. Purtroppo, per me, non c'è alternativa se non quella di essere in un continuo stato di allerta, di diffidare persino, purtroppo, della normalità. Ecco, però c'è qualche indizio in più che potrebbe aiutarci, che potrebbe farci capire se possono esserci dei rischi. Per esempio, Syed Irzat Farouk aveva conosciuto sua moglie Tashfin Malik, che aveva 27 anni, su un sito per giovani single. Lei era nata in Pakistan, ma si era trasferita con la famiglia in Arabia Saudita. Lui era nato in America, cioè questo ragazzo è nato in America e cresciuto in America, di famiglia pakistana, poi decide di sposarsi con una ragazza vicina alla sua tradizione, va a conoscere la famiglia in Arabia Saudita, la chiede in sposa e promette con il suo lavoro, con la sua famiglia, con questa bella cittadina, di dare a questa ragazza il sogno americano. Poi ci sono stati dei viaggi in Arabia Saudita, dei contatti con dei gruppi estremisti islamici. Ecco, questi sono sfuggiti al radar delle autorità. Il pericolo è quello del cane sciolto, della persona appunto in apparenza normale, che poi imbraccia un mitra e spara all'improvviso. Il cane sciolto viene indottrinato e agisce in solitudine. E sono identificabili? No, se sono come loro. Lo sono soltanto all'ultimo momento, quando ormai è troppo tardi. Ecco, torniamo agli zombie. Purtroppo dovremo abituarci a convivere per qualche tempo con questa situazione di assoluta incertezza, augurandoci che non vada a finire come nei film dell'orrore. E questo che vi ho fatto ascoltare, questo spezzone che vi ho fatto ascoltare, è un classico, è il film di Victor Halperin del 1932, appunto White Zombies, gli zombie bianchi. Il regista descrive questi zombies come degli individui privi di coscienza e di mente, sono assassini incapaci di pensare, di sentire, di capire, colpiti dalla maledizione di un mago che rappresenta la forza del male. Ecco, questa tipologia ha anche delle radici nei Caraibi, in Brasile, insomma c'è la tipologia di queste persone che sono assolutamente incontrollate e incontrollabili sul piano emotivo e sul piano di quella che noi considereremmo una reazione normale. Per questo con gli eventi di San Bernardino non siamo lontani, secondo me, dalla fantascienza. Ecco, auguriamoci che si sia trattato dell'eccezione, che la maschera possa cadere prima che lo zombie, questo nuovo nemico invisibile, diventi davvero il nuovo normale. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!